Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, oggi iniziamo la settimana parlando di cuore e in modo particolare di cuore Covid, un tema di cui parleranno a partire da oggi, pensate, più di 1000 cardiologi riuniti al convegno, al 54esimo convegno promosso dalla Fondazione De Gasperis a Milano. E dato che il tema ci sta, è il caso di dirlo, particolarmente a cuore, tante volte abbiamo ricordato che ci sono delle persone che vivono una doppia fragilità e le persone affette da malattie cardiovascolari sono più fragili nei confronti del Covid e possono avere quindi delle complicanze più severe. E noi vogliamo parlare di questo e non solo, e allora ho invitato la dottoressa Maria Frigerio, direttore della cardiologia 2 del De Gasperis Cardio Center dell'ospedale Niguarda di Milano. Dottoressa, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Speriamo di avere anche quest'anno molti presenti al nostro convegno di cardiologia, presenti in forma virtuale perché sarà una formazione a distanza nel rispetto delle regole di prudenza nei confronti della pandemia da Covid-19. Io vorrei qualche anticipazione, dottoressa Frigerio. Insomma, la nomino un po' inviata di Obiettivo Salute per oggi. Ringrazio. Ecco, quello che possiamo dire è che nell'ambito di questa formazione, in tutti i giorni del convegno, abbiamo previsto quella che abbiamo chiamato una pillola Covid, cioè un punto di informazione e di discussione su Covid e malattie cardiovascolari e sul vissuto di questa malattia da parte nostra. In realtà, come spesso ripetiamo, sappiamo ancora molto poco in dettaglio di questo virus, anche perché non è facile fare ricerca quando si è, come dire, oberati dalla fatica e dalla fretta quotidiana di smaltire un carico enorme di pazienti. Più che altro si sono accumulati dati che hanno bisogno di essere analizzati con cura per poi essere divulgati con chiarezza e senza bisogno di doverli poi smentire a distanza. Quello che è sicuro è che il soggetto cardiopatico ha più rischio, una volta che contrae la malattia, di avere delle forme gravi e di avere un impegno clinico e un rischio maggiore di non sopravvivere o di avere dei danni permanenti. Quello che è anche vero è che l'infezione da questo benedetto SARS-CoV-2 può interessare diversi organi e apparati e in generale dare dei problemi di infiammazione vascolare e di microtrombosi o trombosi vascolare che possono interessare diversi distretti, anche il cuore e anche i polmoni. Direi che queste sono le cose fondamentali da dire strettamente dal punto di vista dell'informazione medica. Rimangono poi, in un momento sicuramente molto molto meno drammatico rispetto a quello di qualche mese fa, nel quale tutti noi cerchiamo di tornare a uno stile di vita compatibile con quello che desideriamo e con quello che possiamo, dobbiamo tenere presente. Dottoressa Frigerio, ma le persone che hanno ricevuto diagnosi di una malattia cardiovascolare, quale attenzione e precauzioni devono avere in più rispetto a quelle che sono solitamente raccomandate a tutti, cioè mascherina, igiene, distanziamento fisico? Ma secondo me prima di tutto non devono dimenticarsi di avere anche la loro condizione cardiaca cronica e quindi devono mantenere il più possibile o potenziare le sane abitudini da cardiopatico, per esempio in termini di alimentazione e in termini di astensione ovviamente dal fumo e dagli ambienti inquinati e anche per esempio in termini di mantenimento dell'attività fisica, con una cautela in questo caso, perché nel momento in cui si fa attività fisica aumenta la frequenza e l'intensità degli atti respiratori e quindi anche la possibilità di diffusione di particelle virali, di queste benedette goccioline, si allunga, no? si aumenta, e quindi il distanziamento dovrebbe essere superiore a quello standard di un metro, ma essere per esempio almeno due. Dottoressa Frigeri, andiamo verso l'autunno. Come vede l'autunno e questo autunno in particolare per i cardiopatici? Beh, oltre a quello che abbiamo detto, diciamo che prima di tutto, magari in estate la terapia antipertensiva, i pazienti tendono ad alleggerirla perché fa caldo, sudano e quindi la pressione scende. In autunno direi che è il momento di riprendere una terapia standard e soprattutto anche qui non aver paura che i farmaci antipertensivi che assumono abbiano interferenze sfavorevoli con l'infezione da coronavirus, un dubbio che era venuto qualche mese fa ma che è stato ampiamente smentito da studi su casistiche numerose e questa volta affidabili. Un'altra precauzione potrebbe essere quella di anticipare la vaccinazione antinfluenzale contro l'influenza stagionale, cercare di farla appena disponibile, e pare che in effetti anche l'orientamento della nostra politica sanitaria sia quella di offrirlo prima di tutto ai soggetti fragili. Dottoressa Frigerio, questa della vaccinazione antinfluenzale è una raccomandazione che negli anni passati non è stata tanto seguita. Perché quest'anno è così importante? È vero che in qualche modo può proteggere anche dal nuovo, che ormai tanto nuovo non è più, coronavirus? Dunque, qualcuno dice che è possibile che le difese immunitarie stimolate dalla vaccinazione contro l'influenza o anche da altre vaccinazioni risultino anche più attive nei confronti del coronavirus nel caso si contragga l'infezione. È possibile, ma non è assolutamente certo, e in particolare l'attivazione di una risposta immunitaria adatta a eliminare più rapidamente o più efficacemente il nuovo coronavirus è possibile che non sia la medesima quale che sia il vaccino, e noi sappiamo che il vaccino contro l'influenza stagionale cambia anno per anno in ragione dei ceppi che vengono isolati nella stagione. Quello che invece sappiamo è che ci togliamo di mezzo, almeno riduciamo grandemente il rischio correlato a una malattia che comunque è significativa in termini di impatto epidemiologico, di diffusione e in termini anche di rischio per i soggetti fragili di nuovo, ed evitiamo di sommare due malattie. Qualcuno dice che in questa maniera si fa un favore ai medici, al servizio sanitario, si riduce il carico sugli ospedali e quant'altro. Secondo me, prima di tutto, si fa un favore ai pazienti e alla cittadinanza, perché si rendono gli ambienti più sicuri, si riduce la possibilità di contrarre malattie infettive e anche la necessità di frequentare studi medici, si può continuare ad andare dal proprio medico in ospedale per trovare attenzione e cure per le proprie patologie usuali e non doversi orientare tutti in questa frenesia di diagnosticare e curare malattie infettive. Direi che questo è fondamentalmente questo è un vantaggio. Certo, ma dottoressa, è indubbio però che l'occupazione degli ospedali da parte dei malati Covid, almeno in alcune aree del paese, la riduzione anche temporanea dell'offerta di prestazioni standard, la limitazione della mobilità abbiano, lo sappiamo bene, ridotto l'offerta di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche per i pazienti cronici. Si possono recuperare? E cosa può determinare questo buco nei cardiopazienti? È vero che sicuramente c'è stata una perdita di prestazioni ambulatoriali e di controlli periodici programmati nei malati cronici. L'impatto di questo sulla loro salute, sul tasso di ospedalizzazioni o addirittura sulla sopravvivenza è molto difficile da valutare, ma soprattutto adesso non è possibile farlo. Si potrà eventualmente fare con studi accurati di tipo epidemiologico nei mesi futuri. Quello che però possiamo dire è che un paziente cronico stabile, cioè un paziente che non ha avuto grosse variazioni della sua sintomatologia nei mesi precedenti, probabilmente se salta un controllo non perde moltissimo, soprattutto se ha una buona consapevolezza della sua malattia, una buona informazione. Da qui l'importanza che un malato cronico non sia solo uno che viene periodicamente a fare dei controlli, ma sia una persona che sinergicamente lo specialista e il medico di famiglia informano e tengono informato su come gestire la sua malattia, aumentano insieme con una buona divulgazione come per esempio quella che fa Obiettivo Salute la consapevolezza, la conoscenza della malattia, quello che gli inglesi chiamano il patient empowerment, e quindi diciamo che nel malato stabile io mi auguro che la perdita di qualche controllo ambulatoriale o di qualche controllo diagnostico, soprattutto esami strumentali tipo l'ecocardiogramma o simili, non determini un danno maggiore, mentre invece quello che è importante è che il paziente sappia di avere un aggancio nel caso di cambiamento rapido, nel caso di cambiamento di sintomi o di sintomi nuovi. Dottoressa Frigeri, in chiusura, ci sono delle novità che emergeranno da questo convegno? C'è una notizia, una chicca che lei vuole regalarci in chiusura? Una buona notizia. Una buona notizia. Beh, una buona notizia, diciamo, è... voglio dire tre cose rapidissimamente. Sì. Una riguarda gli sviluppi e l'analisi dei limiti e delle potenzialità della telecardiologia, della telemedicina in generale, che ovviamente in una situazione in cui i contatti diretti sono difficili o sono inibiti dalla preoccupazione dei virus è importante. Una risorsa importante. E però bilanciata, come dire, evitando di farne un mito, perché nella condizione di acuzia o di gravità che il paziente si rechi in ospedale rimane estremamente importante. Un'altra notizia che può sembrare la rivincita del cardiologo clinico è che un grosso studio denominato Ischemia ha confrontato gli esiti nei pazienti con malattia coronarica cronica, quindi stabile e senza particolari caratteristiche di rischio, che andavano sottoposti a un intervento di bypass o angioplastica o che venivano tenuti con le medicine per bocca. Sì. E si è visto che tutto sommato le pastiglie date con criterio da un bravo cardiologo ottengono gli stessi risultati di procedure invasive. E questa mi sembra un'ottima notizia. E un'ultima buona notizia che ci apre anche una nuova opportunità, una nuova strada anche sulla quale riflettere, è che un farmaco inventato come antidiabetico si sta rivelando utile nei pazienti con scompenso di cuore anche non diabetici. E quindi questo apre una prospettiva di cura originale, aggiuntiva rispetto alle cure standard già collaudate e disponibili. Dottoressa Frigerio, grazie. Lei è stata un'inviata super perfetta. Quindi ci sentiamo. Se vengono fuori altre notizie, noi siamo qui, eh? La ringrazio. Un'ultima raccomandazione, se mi avanzano 30 secondi. Certo. Se avete dolore toracico, se avete capogiri e svenimenti, se avete palpitazioni incontrollate, se avete mancanza di fiato, venite in ospedale. Non abbiate paura delle infezioni. Tutti i pronti soccorso sono addestrati a suddividere i percorsi per ridurre il rischio di infezione. Fa peggio un infarto curato tardi che non, e la paura del paziente non deve frenarlo dal cercare soccorso. Dottoressa Frigerio, grazie, grazie per questa sottolineatura. Io le auguro una buona giornata, un buon convegno. Ringrazio Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Come sempre vi do appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata, buona settimana da Nicoletta. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.